Pennelli Ribelli è il nome che abbiamo dato a questo festival che è dedicato integralmente a Marzabotto. E no, è un festival di street art, ma è stato costruito pensando a un anno zero delle commemorazioni della strage di Marzabotto. Allora, a Marzabotto e frazioni, dal 1945 ogni anno si commemora la strage. Ovviamente questo percorso negli anni ha vissuto fasi molto diverse. Negli anni 50 erano momenti molto caldi, appena finita la guerra. Negli anni 70 è stato un momento di ribellione, negli anni 80 il movimento pacifista. Piano piano queste commemorazioni sentono il passare del tempo. Noi abbiamo pensato che ci volesse un linguaggio nuovo, con un'attenzione al reale, anche all'esistente. A Marzabotto, in particolare a Lama di Reno, c'è una cartiera che dava lavoro a tutta la vallata, che è chiusa da 30 anni, una cartiera enorme. Quindi con gli amici artisti abbiamo messo gli occhi sopra e abbiamo costruito insieme un accrocco di idee e di azioni per arrivare, partendo da maggio di quest'anno, siamo partiti da una campagna di raccolta fondi che si è conclusa il 28 di settembre, e dall'1 al 6 ottobre sei artisti, cui diciamo, sono Andrea Casciu, Collettivo FX, Eric Alcane, Guerriglia Spam, Kiki Skippy e Nemos, verranno lasciati liberi di muoversi intorno alla cartiera Lama di Reno, Cabine Enel e vari muri, di esprimere quello che per loro significa Marzabotto. Quindi insomma un linguaggio nuovo per fare memoria. Non a caso l'icona di Pennelli Ribelli è il lupo. Infatti, allora, il lupo è stato il simbolo che ci ha accompagnato, che abbiamo scelto, ci ha accompagnato nella campagna. Il lupo è il nome di battaglia del comandante della Brigata Stella Rossa che operava nella zona, Mario Musolesi, che è sembrato fondamentale creare il collegamento tra la strage di Marzabotto e la resistenza, ovvero le stragi non sono state una conseguenza della resistenza, ma sono state dei momenti di rabbia assoluta, totale, che per l'esistenza stessa della resistenza, no? Quindi l'antifascismo diventa nel nostro caso un momento, questo è un momento in cui con un linguaggio nuovo si mettono sui muri, si piazzano sui muri idee, concetti, ma anche bisogni e realtà di oggi. Certo, ecco, voi avete coinvolto degli artisti che sono, diciamo così, impegnati. Come hanno accolto appunto la proposta? Fortunatamente con un entusiasmo totale, nel senso che hanno aderito subito, anche se questa realtà è stata messa in piedi da un gruppo di amici, non da un'associazione consolidata, da un'organizzazione vecchia nel tempo, con fondi certi, eccetera. Tant'è vero che abbiamo raccolto euro su euro. Devo ricordare che comunque il comune di Marzabotto, che è stato il primo interpellato in tutta questa operazione, ha deciso di destinare alcuni fondi, origine Regione Emilia Romagna, dedicate alle politiche giovanili. Quindi ha fatto anche un gesto coraggioso, perché ha consegnato una carta in bianco, anche se ha creduto fortemente nel progetto e appunto nella ricerca di un linguaggio nuovo. Certo, ecco, visto che sabato ci sarà questa giornata conclusiva, almeno per questa prima edizione, ti chiedo qualche riferimento internet per chi volesse venire su appunto in questa giornata e partecipare all'iniziativa. Allora, una delle donazioni che abbiamo ricevuto è stato un sito web, è pennelliribelli.org, che è appena partito, dove ci sono un po' di istruzioni. La pagina Facebook Pennelli Ribelli e anche una mail che è info@pennelliribelli@gmail.com. Quindi qualsiasi canale sotto osservazione, ci sono tutte le istruzioni per arrivare alla Lama di Reno, che è una frazione di Mazzabotto, dalla Porettana si accede. Il centro sportivo Lama di Reno, che ha due passi dalla cartiera, sarà il centro operativo di tutto il giorno di festa del 6 ottobre. Quindi insomma ci sarà la possibilità anche di vedere i lavori finiti che in questi giorni gli artisti realizzeranno. Certo, ci sarà la possibilità di muoversi liberamente nell'aria e vedere tutto quello che è successo, che sarà una sorpresa anche per noi, ovviamente. Non abbiamo dato temi, come già sai, perché già il luogo, il periodo, perché dall'1 al 6 ottobre è avvenuta nel 44 la strage di Mazzabotto, quindi nello stesso periodo, 60 e rotti anni dopo, lavorano questi artisti, esattamente negli stessi giorni, quindi già tutto è molto vincolante. Andremo a vedere anche noi quello che è successo.